Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10 e 8 minuti, buona domenica, da Stefano Gallarini, Il riposo del guerriero. Oggi vi chiede di andare a recuperare una mappa geografica. È vero, ci sono quelle su internet, è semplice, basta digitare una ricerca e trovarla, ma siccome è meno bella, la mappa geografica è il carta, ecco, poi se è su carta pergamenata sarebbe ancora più bella, magari recuperata dai vecchi libri di geografia, oppure addirittura un mappamondo, ancora più interessante perché si vede esattamente com'è la posizione degli stati, insomma dove viviamo alla fine, come, dove siamo, è bello vedere un punto e capire che noi siamo lì e poi scoprire anche quanto è grande il mondo. O più semplicemente, se non avete né una né l'altra cosa, potete guardarvi dentro, cercare di capire com'è la vostra anima e scoprire che anche lei è fatta di tanti punti, esattamente come una mappa geografica. La puntata di oggi, infatti, si intitola La geografia dell'anima. Racconteremo di percorsi che hanno a che fare sì con la fisicità di un percorso vero e proprio, ma anche con quello che sono i percorsi dell'anima. You said I will. I knew that this love was real and that my fate was sealed. Oh, heaven must have programmed you. The moment I looked into your eyes, I knew that they told no lies. There would be no goodbyes. Oh, 'cause heaven must have programmed you. Nella straordinaria capacità di Cat Stevens, di quello che fu Cat Stevens, era Cat Stevens, di scrivere. Lui, Dio, lo chiama Mr. Program, cioè colui che ha il programma in genere per tutto. E ho chiesto proprio a Harvey Steiner, ciao Harvey, buongiorno. Ciao, buongiorno. Tra poco ti presento. Conosci Yusuf Islam? No. Conosci Cat Stevens? Sì. Perché pare che Cat Stevens l'abbia accompagnato per il viaggio che adesso racconteremo, però insomma Cat Stevens nel 77-80, non mi ricordo, si è convertito, è diventato musulmano e ha cambiato anche nome. E ho scelto di cominciare con lui perché insomma la sua vita è sicuramente geograficamente parlando, dal punto di vista dell'anima, molto molto interessante. Allora, Erwin Steiner ha 20 anni, 2-0, così. Sì. E sei iscritto all'Università di Psicologia di Torino. E poi a un certo punto ha deciso di fare una cosa. Ho deciso di partire in bici, attraversare l'Europa da sud a nord per 8.000 chilometri in solitaria. Ecco, perché? Da dove sei partito per capire che dovevi fare questa cosa? Beh, 2 anni prima di partire per il viaggio sentivo un forte bisogno di andarmene, di prendere e fare qualcosa, di muovermi in giro per il mondo, per l'Europa. Non mi interessava il mezzo, tranne che sul piano economico è quello più comodo. Sì. Perché in bici vanno le tue gambe, non hai bisogno di nessun carburante. La gente è molto disponibile, ti vede come una persona buona, difficilmente... Quindi è più facile l'approccio con gli altri. Sì, è molto più facile. La gente è disinvolta, ti vede, è interessata, ti ammira, quindi è molto aperta. Quindi 2 anni per capire che prima o poi avresti fatto questa cosa e poi a un certo punto hai deciso. Ho deciso. Nel giro di quanto? Da quando ho deciso... Ho deciso di partire per un giro in bici prima di dare la maturità, l'esame di maturità, per cui ho dato l'esame solo il più in fretta possibile per togliermi questo peso e poter partire. Poi mi sono iscritto all'università per riempire questo buco di 4-5 mesi, dovendo partire non troppo presto perché dovevo arrivare in piena estate su al nord per ovvie condizioni meteorologiche. Tu dici capo nord inverno sarebbe un po' un problema, esatto. Sì, in bici soprattutto. E quindi sono partito Sei partito di punto in bianco poi, perché hai cercato uno sponsor che ti regalasse una bicicletta, non l'hai trovata e hai Esatto. dovuto comprarla alla fine. Esatto. Diciamo che la preparazione effettiva è durata un Ah, mese così neanche di così fretta e tanto, quindi. furia. Se magari è già abbastanza, ora ti dico io perché c'è anche chi sentiremo che proprio non si è preparato quasi per nulla, è durata molto meno. Aggiornamenti sul traffico, vi parliamo proprio di questi viaggi, anche delle vostre curiosità, magari volete intraprendere anche voi un viaggio di questo tipo in solitaria, in giro per il mondo, 349-238-6666. Il riposo del guerriero. Io direi di sentire anche Francesca Dragotto, la nostra glottologa. Ciao Francesca, buona domenica. Perché Buona domenica, buongiorno a tutti. volevo partire anche da te parlando di anima dal punto di vista della parola. Da dove arriva questa parola? Perché cercheremo di spiegarla, perché è così difficile cercare di dargli una connotazione. Aprirei facendo i complimenti a chi ha trovato il titolo per questa puntata. La geografia dell'anima è un titolo bello in sé e bello perché poi lo stiamo già vedendo, attiva una duplice lettura, una legata a tutto ciò che si può fare per ricercare se stessi, il senso della vita, il senso di ciò che accade. E poi c'è una seconda lettura, meno immediata, almeno per i non addetti ai lavori, che è quella della geografia interna, in un certo senso una geografia materiale, una topografia dell'anima, perché è legata alla ricerca della sede dell'anima. Per definire la sede dell'anima sono state proposte infatti innumerevoli sedi in epoche diverse, in culture diverse, tanto che possiamo parlare di una geografia mutevole, le cui scritture richiedono una lettura che tenga conto dei contesti che l'ha originata. Insomma, si va dal cuore, si va alla mente come sede dell'anima, ma persino ai capelli che in alcune culture, essendo ritenuti sede delle forze vitali, si ritiene non debbano essere recisi. Ora però a rischio, e quindi arrivo a darti la risposta che cerchi, a rischio di essere tacciata di etnocentrismo, devo dire che la cultura d'elezione per questa riflessione ha parlato greco antico, e la parola deriva dal greco anemos, che significa vento, soffio e quindi respiro. So che avete un ospite che Puoi si occuperà di. chiamarlo, puoi presentarlo anche tu se vuoi, Francesca, perché lì Oh, è già in certo, linea. con grande piacere avete ospite Lorenzo Perilli che molto meglio di me vi saprà portare nei meandri di questo discorso, occupandosi di filosofia del mondo antico, in particolare del mondo greco per professione. Quindi non intendo togliergli spazio, voglio semplicemente limitarmi a mettere in evidenza alcune curiosità. Il significato mette in relazione della parola, il significato originario del greco, da cui poi appunto. Anima mette in relazione la vita con la funzione biologica del respirare, però poi l'anima è passata ad indicare un qualcosa appunto di meno collegato alle funzioni materiali, si va quindi, c'è una virata verso l'immaterialità, verso la coscienza, verso la passione, e quindi centrale in questa riflessione non può che essere il discorso platoniano. Una curiosità, molti quando sentono parlare di anima e vedendo l'aderenza formale con la parola animale, chiedono come sia possibile che un qualcosa che viene ritenuto essere precipuo dell'uomo venga poi ritrovato così quasi identico nella parola animale. Anche in questo caso nella lingua troviamo le risposte, e la risposta consiste proprio nel fatto che all'interno però del latino animale sta ad indicare colui che respira, quindi l'essere che respira. E questo che significa? Significa che l'uomo viene identificato in maniera differente come colui che oltre a respirare è dotato di qualche altra cosa. E questo, ecco, ci dà l'idea di come quella deriva di cui parlavo prima abbia avuto inizio. Ora non so se voi volete inserirvi in qualche modo, altrimenti possiamo No, parlare. grazie Francesca, è stata anche molto chiara. Io direi invece di chiamare in casa proprio Lorenzo Perilli. Intanto grazie Francesca Dragotto. Lorenzo Perilli, buona domenica. Buongiorno, buona domenica. Allora, abbiamo capito che l'anima è materiale o immateriale? Tutte e due le cose, a quanto pare. Tutte e due le cose a quanto pare, ma il problema principale sarebbe capire che cos'è l'anima, che cosa dobbiamo identificare con l'anima e quale dei termini antichi del mondo greco, per esempio, dobbiamo identificare con l'anima, perché Francesca Dragotto ha appena parlato del latino anima, e il latino ha anche animus, naturalmente, che ha la stessa etimologia, e così come il greco ha una serie di termini che definiscono l'anima. Ma insomma, l'anima è un qualcosa che dimora nel profondo dell'organismo, è un qualcosa di materiale, ad un tempo e che a un certo punto diventa immateriale, perché nel momento della morte l'anima abbandona il corpo. L'unica cosa che nella cultura greca arcaica viene descritta, l'unica caratteristica dell'anima che viene descritta dalla cultura arcaica, è il fatto che essa abbandona il corpo. Mentre il corpo è vivo, l'anima dorme. Quando il corpo muore o quando il corpo dorme anche durante il sonno, l'anima è viva, l'anima agisce, interviene, e quindi l'anima lascia il corpo come un sogno, come un fantasma, come un'immagine di vita, un eidolon, dicono i greci, un idolo, un'immagine. L'anima è il respiro e quindi risiede nei polmoni, ma l'anima è anche sangue, in quanto risiede nella sostanza vitale per eccellenza del corpo umano. L'anima diventa anche poi ragione, in Platone in particolare, come è stato appena ricordato, e allora trova delle localizzazioni specifiche, viene divisa in tre parti e viene fatta risiedere nel cervello, per quella che è la parte razionale, nel petto, per quello che è la parte definita concupiscente, desiderativa, e nel fegato, per quella che è la parte irascibile. Quindi c'è una vera e propria topografia dell'anima negli antichi, che i medici antichi si incaricano di spiegare. Una parte dell'anima risiede nel cervello perché dal cervello nascono i nervi, una parte dell'anima risiede nel cuore perché il cuore è il punto di partenza delle arterie, secondo la concezione antica, e una parte dell'anima risiede nel fegato perché dal fegato partivano, secondo gli antichi, le vene. Quindi c'è un tentativo di razionalizzare delle concezioni arcaiche che erano spontanee, naturali, intuitive in qualche modo. Certo, e poi insomma, quindi dargli fare in modo di poterla capire, ecco, questo alito di vento, no? Che altrimenti sarebbe assolutamente incomprensibile. Oggi, anima, per anima oggi che cosa si intende invece? Che cosa si intenda oggi per anima sarebbe interessante capirlo, perché c'è stato nel frattempo l'intervento e l'influsso della religione, naturalmente, su questo concetto. Anche questo è un qualcosa che parte dall'antichità, da Platone e da Aristotele in avanti, e poi con il cristianesimo l'anima diventa una sostanza in qualche misura più immateriale. Ecco, quindi è più difficile collocarla geograficamente, diciamo così, all'interno del corpo. Beh, è più difficile anche al momento anche identificarla in qualche modo. Per collocarla bisogna averla identificata, identificarla bisogna che essa abbia un'identità, mentre questa realtà incorporea, indivisibile, impassibile, che non nasce, non muore, diventa un'entità più astratta di quanto non fosse per gli antichi. Che è quindi anche più difficile da comprendere. Grazie Lorenzo Perilli, buona domenica. Prego, buona domenica a voi. O cammini lungo le... In totale Erwin ha viaggiato per 11.000 chilometri, poi 8.000 invece sono stati quelli in bicicletta. Esatto. Allora c'è un sito, se volete visitarlo, www.8000, il numero KM sta per chilometri.it, per vedere la mappa. Allora tu sei partito da Tarifa. Sì, da Tarifa, sì. Dal punto più a sud dell'Europa, nonché della Spagna. Luogo ideale per i surfisti, esatto, pare di sì. E poi lì hai cominciato a salire fino a Capo Nord, quindi hai costeggiato seguendo tutta l'Europa. La costa, sì. Esatto, ho fatto il Portogallo, dopo il Portogallo sono andato nel nord della Spagna, in Galizia, nei Paesi Baschi, seguendo il Cammino di Santiago, il famoso Cammino dei Pellegrini, anche se io l'ho fatto al contrario, da Santiago di Compostela. Va bene lo stesso. Fino in Francia. E da lì ho di nuovo costeggiato la Francia, per poi raggiungere la Normandia e buttarmi più nell'entroterra tagliando tutto il Belgio. Poi, passando per un pezzettino di Olanda e Germania, sono entrato in Scandinavia dalla Danimarca. Da lì è entrato per me il viaggio più profondo, con spazi molto più lunghi. Ovviamente non c'era meno gente. Si incontrano meno anime vive, esatto, come si suol dire, no? E ecco, qui si può dire che il viaggio è diventato più introspettivo, perché Mentre prima uno pedalava magari 8 ore al giorno, osservando vari paesini, l'architettura, opere, persone, locali, mercatini. Sì, godendosi più il viaggio nel senso stretto della parola. Sì, Io più un credo viaggio che, turistico, diciamo. esatto, io credo anche che l'inizio, visto che questa è la tua primissima esperienza, tu non sei un ciclista, ecco, quindi non nasci come No. non sei uno che si faceva 40 km al giorno, anzi, no, appunto, Esatto. usavi sì la bici, ma come la usiamo tutti, e credo che l'inizio sia un po' servito a capire che cosa stava succedendo, no? Anche a sapere come gestirsi. E poi mano a mano, quindi hai potuto dare più importanza anche invece al tuo Sì, bene io. o male l'inizio è stato mi ha temperato molto perché è stata la parte più difficile, più dura di tutto il viaggio. Con quanti Perché soldi sei partito? sono partito con un budget di 3.000-4.000 euro Sì. che non ho speso tutti, grazie a tutta l'ospitalità che ho trovato in giro, andando molto al risparmio, sono riuscito a spendere la metà del previsto. Poi molta gente mi ha aiutato durante il viaggio, familiari, amici, sconosciuti, mi hanno dato qualcosina, ognuno mi ha aiutato come poteva, per cui si può dire che ho viaggiato a spese altrui. Alla fine, insomma, si può fare, Si ecco, può questo fare, si può è il fare. senso anche di un viaggio così lungo, 8.000 km sono veramente tanti, in quanto tempo? 4 mesi? Quanto ci hai 5 mesi messo? 5 mesi, totali, ho ok. fatto 4 mesi e mezzo di pedalate e poi le ultime 2 settimane in autostop scendendo per la Norvegia. Ecco, poi appunto vedremo un po' quel momento, cioè quello per arrivare a Capo Nord che tu dici è stato il momento più importante per me, poi vedremo per quale motivo. Tra poco anche un altro ospite che ha appena pubblicato un volume del quale parleremo, è stato presentato ieri e che ha girato non l'Europa ma tutto il mondo. Il riposo del guerriero. Non esiste uno schema di vita che vada bene per tutti, come la società cerca di imporci. Ogni essere umano ha un destino diverso, necessario per poter realizzare se stesso. Più si cerca di reprimere questa inevitabile attrazione, e più energia negativa verrà attratta nella nostra vita. Solo quando ci libereremo dai freni sociali e degli attaccamenti, lasciandoci trasportare al largo senza più opporre nessun tipo di inutile resistenza al nostro destino, potremo coglierne la sua essenza più pura e serena. Questa è la presentazione del libro di Carlo Taglia, Vagamondo, che saluto. Ciao Carlo, buona domenica. Ciao a tutti, buona domenica. Anche Carlo, curiosamente, è di Torino, ha 28 anni, ieri ha presentato questo libro che nasce da se stesso, perché se l'è anche autopubblicato, vero Carlo? Sì, ho deciso di autopubblicare il libro anche per continuare a rimanere un po' in armonia con il mio stile di vita indipendente e libero. Ecco, che è quello di assoluta libertà, 95.450 km, questo è il totale del percorso, per 528 giorni, quindi un anno e mezzo, poco più, e 24 nazioni visitate. E Carlo, anche tu, insomma, la domanda da quale luogo dell'anima sei partito per intraprendere questo viaggio? Beh, per me il viaggio, diciamo che è iniziato circa 8 anni fa, del luogo dell'anima, diciamo che posso definirlo il cuore, non lo so, è stato un momento della mia vita in cui ho dovuto mettermi in viaggio per cercare di curare la mia anima. Per me il viaggio è la medicina dell'anima. E quindi hai cominciato a muoverti rigorosamente senza aeroplano, se non credo col forse il primo viaggio per la tua partenza, giusto? Poi mai più. Sì, ho deciso di raggiungere il Nepal prima perché volevo iniziare dall'Himalaya, da un'esperienza mistica sulle montagne per trovare le forze necessarie spirituali per affrontare il resto del viaggio. Quindi sei partito da lì e poi l'aereo non l'hai mai più visto e ti sei mosso come? Perché al contrario di Erwin, tu non sei andato in giro con una bicicletta, ma semplicemente con le tue gambe. Beh, io cercavo mezzi di fortuna, c'erano pullman, treni, oppure ho trovato passaggi su barche private, ho preso mercantili, quello che trovavo senza organizzare nulla. Ecco, il tuo budget iniziale quanto è stato? Ma io immaginavo più o meno un 10.000 euro all'anno e alla fine sono riuscito a spendere in 18 mesi circa 13.000 euro. Ecco, tra l'altro Elvi mi raccontava che adesso fuori onda che in realtà non ha speso niente, nel senso che quello con cui è partito è riuscito anche più o meno a tornare con la stessa cifra, perché tra una cosa e l'altra ci si barcamena, ci si arrangia, arrivano gli aiuti e si riesce anche a portare avanti un viaggio senza un budget da quel, perché insomma purtroppo bisogna, è tutto molto vero, no? Perché tutto si fa per in qualche modo anche per ritrovare se stessi, per capire, per guardare, come dici tu Carlo, per affrontare anche la libertà del mondo, però poi c'è la vita pratica e quella bisogna fare i conti anche con quella, no? Giusto? Certo, ma io credo che quando uno si mette sulla strada arrivano forze che neanche immaginiamo che ci aiutano lungo il cammino, si tratta solo di fare il primo passo, poi in un modo o nell'altro le persone che ci circondano ci aiutano. E infatti le storie poi che avete raccontato tra i racconti verbali di Erwin, i tuoi scritti, lo dimostrano. C'è una nazione che ti ha sconvolto da qualche punto di vista? Beh, nel bene e nel male l'India mi ha sconvolto, però comunque diciamo che mi ha più impressionato anche nel bene, a livello umano mi ha trasmesso tantissimo, ho visto una disperazione rara in altri paesi, però in quelle persone ho trovato una dignità straordinaria, per questo mi trasferisco in India a novembre. Ecco, quindi allora possiamo dire che il tuo viaggio dell'anima approda in India? Sì, perché è una realtà spirituale dove posso approfondire questo discorso. Senti, qual è la cosa più difficile che ti è capitata di dover affrontare, Carlo? Per me la cosa più difficile è stata mangiare, perché durante il viaggio ho deciso di diventare vegetariano e in un mondo estremamente carnivoro per me era un problema fare colazione, pranzo e cena ogni giorno, quindi a volte facevo lunghi digiuni o mi nutrivo solo di biscotti. Ecco, quindi c'è un'esperienza che ti ha cambiato da tanti punti di vista. Quando, perché hai deciso di diventare vegetariano? Scusa se te lo chiedo. Cioè, qual è stata la molla? Diciamo che in questo viaggio ho cercato di spogliarmi di tante abitudini che non erano mie. Praticamente ho iniziato ad analizzare ogni mia singola abitudine, soprattutto nell'alimentazione, e mi sono chiesto, ma io mangio questo perché lo voglio io o perché mi è stato trasmesso dalla società? E allora lì, quando ho visto animali sofferenti per strada, perché in India è pieno di vacche abbandonate, che sono animali sacri, che mangiano plastica per strada, come i cani randagi da noi, e lì ho pensato un po', ma poveri animali, e il pensiero mi è venuto in mente che era comunque legato al fatto che io li mangiavo e quindi li uccidevo in qualche modo, e mi sono detto di essere coerente col mio pensiero. Una volta che ho trovato questa coerenza, ho trovato una nuova forza, un nuovo benessere, ed è stata un'evoluzione. Carlo, il viaggio rigorosamente da solo? Sì, rigorosamente da solo, perché il viaggio è soprattutto introspettivo più che conoscere nuovi popoli. Il giro del mondo senza aerei, il vagamondo, Carlo Taglia, lo trovate in libreria, anche se autopubblicato, e ovviamente anche in rete. Grazie Carlo, so che avresti moltissime cose da raccontare, ma la cosa migliore è leggere il libro, perché, certo, sono, grazie a voi. Ciao, perché sono 400 pagine e anche molto fitte, perché Carlo volutamente ha cercato di raccontare ogni singolo aspetto di questo suo viaggio nel volume che ha pubblicato. Erwin, qual è la cosa più difficile che ti è capitata di dover affrontare nei tuoi 8.000 km in bicicletta? Credo che sia stata la prima parte, i primi 2 mesi bagnati. Ho preso 2 mesi di pioggia. E quando non pioveva era umido, faceva freddo. Nei paesi tra l'altro i più caldi, Portogallo, Spagna, per cui non hanno riscaldamento le case. Vieni ospitato, vai magari in una pensioncina, sì, e non riesci ad asciugare le cose. Rimani bagnato, entri nelle lenzuola del letto e sembra che sia tutto bagnato. Sei stanco e non riesci a trovare conforto e riposo. Per me poi era l'inizio del viaggio, per cui per me era tutto nuovo. Bene o male, il mio primo viaggio da solo, fisicamente faticoso, mentalmente faticoso. E per me quella è stata forse la parte più dura interiormente. Non c'è mai stato un momento in cui hai detto voglio tornare indietro? Non ho mai pensato di tornare indietro. Ogni tanto avrei voluto fermarmi, magari prendere qualche giorno di riposo per poi riprendere. Ma fortunatamente non ho mai desiderato di smettere di viaggiare o perlomeno di raggiungere la meta che mi ero prefisso. È andata bene a quanto pare, insomma hai tante cose da raccontare, tante foto che hai anche scattato, anche se poi anche lì insomma la tecnologia non è che ti ha molto aiutato, anzi. Andrea Livio, ciao, buona domenica. Ciao Stefano, come stai? Ma io sto bene, guarda, tu anche. Allora Andrea, a un certo punto non si capisce perché, ma non ha capito neanche lui, ha deciso di prendere una moto, una Guzzi Stelvio, e partire dallo Stelvio, tornare allo Stelvio girando per tutto il mondo. Ma sì, diciamo che la cosa più difficile per rispondere a una domanda che non mi fai, però ho sentito che hai fatto agli altri, è stato partire, nel senso uscire di casa e fare i primi 20-25 metri lasciando alle spalle la casa. Poi il resto ci sono tante difficoltà, ma quando ormai sei partito riesci a superare, almeno sono riuscito a superare qualsiasi, ecco, io tra l'altro, conoscendo Andrea Livio da molto tempo, quando mi ha telefonato per dire Stefano parto e va bene, ok, c'è un sito se volete seguire il suo viaggio, Stelvio tu Stelvio e il tu è un numero .it, e non ha pianificato niente, no? No, nel senso, ho pianificato il punto d'arrivo per avere la certezza di tornare, diciamo, nel senso che per esperienza personale non è la prima volta che parto per un lungo viaggio, ero già partito anni fa, sono stato via 3 anni e niente, volevo, come si dice, mettere un punto d'arrivo per poter poi valutare veramente il viaggio, perché quando si è, stavo proprio pensando ieri che mi chiedevano, ho lavorato un mese su una barca scaricando bombole del gas e caricando riso e facendo questo tipo di cose. In cambio ovviamente del passaggio, scusa, no, per precisare, per un passaggio che dovevi avere in quel momento, al posto di dormire in cuccetta hai lavorato, ecco, per un mese. C'erano le cuccette, era sì, una barca, immagino, di legno. Infatti non era una battuta, c'è anche la foto. Sì, no, ma se non è tanto per scelta, è stato dovuto che mi sono ritrovato senza soldi in un posto dove non avevo modo di fare altrimenti, sì. Ma è una storia lunga che riassume, che non raccontiamo. La cosa è che i pensieri che avevo durante questo lavoro, durante questo periodo, credo fossero molto, come si dice, basici, semplici, mentre in realtà le considerazioni una volta sceso dalla barca erano tutt'altro. Dunque prima si fa uno sforzo e dopo si gode e si impara da quello che, infatti, quello che è successo. Tutto arriva dopo. Io anche chiacchierando con Erwin Steiner prima di fare la puntata, a Erwin a un certo punto dico, così chiacchierando, ma cosa ti ha portato, no, questo viaggio, Erwin? E tu mi hai risposto che non lo sai ancora. Cosa mi ha portato dopo? No. Infatti credo che sia una cosa, un'evoluzione comunque, nel senso che la settimana scorsa pensavo fosse un'altra cosa, poi questa settimana già penso che quello che ho imparato è diverso, e chissà cosa penserò la settimana prossima, e non mi precludo a cambiare idea. Sai quanti, tu sai quanti chilometri hai percorso, Andrea, o non lo sai calcolare? La moto di chilometri ne ha fatti un 102-103 mila, in nave ho calcolato che hanno fatto un 14-15 mila, non credo sia quello. No, ma per cui è una curiosità, no? Perché c'è anche la curiosità dei numeri, perché comunque sono... Anche quello degli stati attraversati, che un amico mi ha corretto perché avevo sbagliato il numero di stati che avevo attraversato, ed erano molto di più facendo il calcolo giusto, però non so, tipo degli stati del Centro America che sono grandi come il Molise, che si attraversano in una giornata. Ok, adesso sono passato attraverso. Sì, certo, poi non sei stato lì a calcolare, perché non è quello lo scopo, ma questo è evidente. C'è stata una nozione anche per te che in qualche modo ti ha sconvolto per una ragione o per l'altra? Sconvolto? No. Adesso, porto impressioni positive un po' da... La realtà più difficile che hai incontrato, Andrea, a parte non aver soldi e dover quindi lavorare per un mese sulla barca? Difficile non saprei dire, perché anche nelle situazioni cioè all'apparenza difficile, posti dove c'era la guerra, sì. E la percezione delle cose è sempre stata positiva, nel senso anche di persone che mi hanno aiutato, la cui, come si dice, professione, diciamo che è totalmente fuori dalla legge, non posso che avere dei ricordi positivi anche di questo aspetto, e questo è interessante. E allora, Carlo Taglia, l'abbiamo sentito prima, Andrea ha deciso che, cioè, alla fine, dopo il suo viaggio, andrà a vivere in India. Tu invece sei tornato allo Stelvio, sei ancora dove sei nato più o meno, cosa farai? Ti sposti? Adesso sono un po' nel limbo, sono appena tornato. Sono ancora confuso, diciamo. Non ho ancora idea. Ti lascio confuso e felice. Allora, grazie Andrea Livio, buona domenica, ciao. Vi ricordo il sito stelviotustelvio.it e dopo cercheremo di capire anche con Ervi Steiner che cosa ha cominciato a scoprire proprio in questo viaggio tra Scandinavia, Svezia, insomma, quello è stata, diciamo, la parte più interessante. Intanto volevo leggervi un messaggio per gli aggiornamenti sul traffico. Con moglie e tre figli da Praga a Berlino, lungo l'Elba, bici più tenda, l'ennesima ciclovacanza estiva a zonzo per l'Europa, puro godimento, viva la bici, lo scrive Alex, fra l'altro di Padova. In questi giorni a Padova c'è proprio la fiera internazionale della bicicletta, quindi se foste da quelle parti potete anche andarvi a godere questo aspetto. Il riposo del guerriero. Allora Erwin, abbiamo superato la Francia, siamo saliti, sei arrivato a un certo punto in Svezia. In Svezia, sì. Che era per me un grande sogno raggiungere la Scandinavia. Ho sempre sognato questi boschi enormi, tanta natura, vegetazione e meno persone, meno civiltà. Hai trovato questo? E ho trovato questo, perché bene o male arrivi a un certo punto in cui pedali lungo una strada senza niente per 130 km e poi riesci a trovare magari un chioschetto che ti possa vendere qualcosa da mangiare. Ed è così, e tu devi programmarti una giornata intera di pedalate o una giornata e mezzo, sapendo che non ci sarà niente se non qualche renna, qualche alce o qualche animale che potrebbe attraversare la strada e scappare dalla bici. Ecco, tu non hai fatto un cambio come Carlo, non sei diventato vegetariano nel tuo percorso? Io no, sorprendentemente finora, a quasi due mesi dal ritorno, non ho notato grandi cambiamenti nella mia persona e mi ha deluso un po' questa cosa. Forse perché sono rimasto molto attaccato a ciò che avevo lasciato a casa. Avevo continuamente dei contatti con la famiglia, gli amici. Nel bene o nel male, le tecnologie di oggi ti hanno permesso di non essere isolato. Esatto, dal tuo cosa mondo. Che in realtà io cercavo. Avresti dovuto spegnere il telefono. Esatto, soltanto che se uno vuole tenersi aggiornato un sito e avere comunque un po' un impatto mediatico, condividere questa esperienza durante il viaggio, non a posteriori, si ritrova vincolato dal cellulare, da tutte queste cose. Ecco, io non l'ho chiesto, ma lo so, Andrea, per esempio, abbiamo sentito prima Andrea Livio, nel suo viaggio invece non ha il suo sito, non era aggiornato da lui, ma l'unico amico che col quale era in contatto e al quale ogni tanto chiamava raccontando determinate cose, e poi il suo amico aggiornava il sito proprio per avere un po' questo isolamento, no? Perché poi alla fine tu stesso dici: quello avrebbe dovuto essere, forse il tuo prossimo viaggio sarà più isolato. Sì, bene o male, comunque quando uno pedala può fare ben poco. Sì. L'unica cosa che può fare è mettere in moto il cervello e stare Avevi a pensare. Le cuffiette con la musica? Per me la musica è stata un po'... era come lo zuccherino, diciamo, l'ultimo stadio, quando sei tanto debole e così ti prendi lo zucchero che ti dà energia. Per cui di solito, quando non ce la facevo più a pedalare, per distrarmi un po' dal pensare devo arrivare, mettevo la musica e mi allietava quelle pedalate. Qual è stata la bicicletta si sarà rotta qualche volta, quantomeno bucata. Ho avuto parecchi problemi con le forature, ho forato più di 10 volte, che non è tanto in 5 mesi. Il problema è che ero particolarmente sfortunato e bucavo, cambiavo la camera d'aria, dopo meno di un chilometro ribucavo. Ci sono anche i copertoni così, che cercano di evitare questo, esatto. Ma non li hai montati, ecco, non li ho montati, ma Tardi, ecco, perché per esempio in Portogallo non vendono copertoni o ruote che non siano o da corsa o da mountain bike, e basta. Per cui una city bike o qualunque ibrida non si riescono a trovare gomme o ruote per una bici normale. Tu tra l'altro non sapevi niente di tecnica, diciamo, meccanica della bicicletta, se non il fatto che si pedalasse e che ci fosse una catena. A livello intuitivo mi è sempre piaciuto un po' cioè sapere dove mani. Devi avvitare e svitare, per esempio, per non smollare. Per quello che poteva essere la base, qualcosa sapevo. E poi quello era anche lo scopo del viaggio. Per me il viaggio doveva essere portarmi in delle situazioni difficili e imparare a cavarmela. Le hai trovate queste situazioni? Le ho trovate perché dovevo ingegnarmi in qualche modo, che poteva essere non so dove andare a dormire, devo trovare una tettoia per mettermi perché pioverà fortissimo, poteva essere uno squarcio nel copertone come mi è capitato, e domenica nessun negozio aperto, lunedì in Francia non lavorano i ciclisti, per cui ho dovuto fare 150 km con una ruota praticamente sgonfia, se no mi usciva la camera d'aria dal taglio del copertone. Ecco, rischi anche di rovinare la ruota però. Esatto, per cui insomma piccole grandi cose, ma ho sempre cercato di riuscire a cavarmela con le mie forze. Era proprio lo scopo. Forse quella è una cosa che mi ha dato il viaggio e che man mano mi renderò conto. Certo, perché poi anche parlare serve anche a questo. Secondo te la fortuna viene a chi sorride in generale, Erwin? Io credo di sì. Io anzi ne sono fermamente convinto che per esempio il viaggio in solitaria in questo modo, come hanno affrontato anche gli altri due viaggiatori che abbiamo ascoltato, non è solo un fatto economico. Non posso permettermi di viaggiare per così tanto tempo, per cui mi trovo in una situazione che me lo permetta di fare. Io credo che viaggiare coi mezzi di fortuna, cercando aiuto, ti apra, tu sei sincero, ti apri al mondo, ti apri alle persone, e in qualche modo viene percepito questa apertura. E quindi si trasmette, cosa succede. Per cui lo rifarei, anche se avessi dei soldi. Magari in situazioni estreme, quando proprio non ce la faccio più, magari mi prendo una stanza di hotel, se posso permetterlo. Sì. Ma se riesco, invece, continuerei a cercarmi una grotta, un riparo, un bivacco, così, qualunque cosa. Perché ti mette proprio a contatto con persone, natura, tutto ciò che ti può dare valore, più che una notte. Beh, ti mette a contatto con la nostra partenza, alla fine noi siamo partiti da lì, certo, non dagli alberghi. Esatto. Fabio Zaganelli, ciao, buona domenica. Ciao, buona domenica anche a te. Fabio ha scritto un volume, si intitola La fortuna viene a chi sorride. Fabio, vuoi raccontare come nasce questo libro, senza che lo dica io? Questo libro praticamente è un assunto di una vicenda personale più le mie esperienze di viaggio. E il titolo non è una metafora o un proverbio orientale come è maggiormente conosciuto, è esattamente quello che è successo. Ecco, vuoi raccontare la tua storia, capire perché, cioè il viaggio cosa ti ha portato e perché tu parli di un dolore fortissimo da affrontare appunto con un sorriso? Ma praticamente nel lontano 2004... Al ritorno di un mio viaggio ero stato ricoverato d'urgenza per questo male fortissimo, un male invisibile che mi ha seguito in quel periodo per ben 8 mesi fra Australia e sud-est asiatico. Ecco, quindi il tuo viaggio è stato accompagnato da un dolore, ecco, fisico proprio. Sì, esatto. Però il libro chiaramente ha un risvolto completamente opposto alla partenza, nel senso che il dolore poi si trasforma in sorriso, in felicità, in piacere. Esatto, cioè praticamente in questa vicenda, diciamo, drammatica c'è tutto il risvolto spirituale di quello che è stato il viaggio a livello materiale, pratico e poi spirituale. Ecco, quindi tu dici, secondo te, adesso questa cosa ti è capitata durante il viaggio appunto, ma secondo te è stato proprio il viaggio anche a darti una mano a superare il dolore fisico della malattia? Ah, sicuramente. Cioè, nel senso che se tu non fossi stato in viaggio in quel periodo sarebbe stato diverso da quel punto di vista? Sì, perché comunque cioè, il fatto di trovarti a confronto, metterti in gioco con un'esperienza di vita completamente diversa da quelle che sono le certezze di quando sei a casa tua, nel tuo circuito sociale, amicizie, lavoro, famiglia, eccetera. Ti ha aiutato anche a superare appunto qualcosa che sembrava molto difficile, sì, da superare, cioè, a quanto praticamente pare. Praticamente c'è stato quello spunto, quell'intuizione per arrivare a capire ciò che non avevano capito dei medici quando gli erano venuti dei dubbi. Chiaro, sei stato molto chiaro, Fabio. Fra l'altro è un po' quello che diceva Erwin, no? Voleva trovare le difficoltà perché sono quelle che bisogna imparare a superare. Grazie Fabio Zaganelli, complimenti per tutto. Il libro si intitola La fortuna viene a chi sorride. Buona domenica Fabio. C'è il GR e poi torna a Riposo del Guerriero con la geografia dell'anima. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Il riposo del guerriero. È 17 minuti, ancora buona domenica da Stefano Gallarini, il riposo del guerriero. Oggi la puntata si intitola La geografia dell'anima. Abbiamo capito come l'anima stessa possa risiedere in varie parti del nostro corpo, ma come attraverso il viaggio è possibile anche capire chi siamo, magari non capirlo affatto e capirlo in futuro, come francamente sta succedendo o è successo agli ospiti che abbiamo avuto in onda al telefono. Però ne abbiamo uno invece fisicamente di persone davanti a me, si chiama Erwin Steiner, 20 anni, e quest'anno ha deciso di prendere la bicicletta e fare un percorso per l'Europa di 8.000 km, 11.000 poi il totale, insomma, compresi gli spostamenti con altri mezzi. E così il viaggio è stato pensato semplicemente per cercare di... Non si sa bene che cosa, i viaggi partono senza sapere neanche bene che cosa. Cercare di trovare se stessi, di riuscire... Vediamo se me la cavo. Secondo me a capirci qualcosa quando non ci si sta capendo niente. Però, ma sei tornato a studiare in università o no? Adesso devo riprendere gli studi, ho un esame tra qualche giorno. Quanta voglia hai? Poca. Ecco, va bene. Sì. Allora, vabbè, semplicemente perché dopo tutto questo uno deve anche comunque elaborare, ovviamente. I complimenti arrivano da molte persone, da molte ascoltatrici. Quante donne hai incontrato nel tuo viaggio? Parlo di viaggiatrici, Viaggiatrici donne ne ho incontrate proprio poche, e quelle poche erano in compagnia o erano una coppia, per cui lui e lei che viaggiavano. Quindi non da sole. O degli amici. Non ho incontrate da sole, ma sono stato ospitato dal padre, in quel caso era un padrino, di una ragazza svedese di 26 anni che era partita qualche mese prima che arrivassi io in casa, per andare dal sud della Svezia, da casa sua, fino a Città del Capo nel Sudafrica. Anche lei in bicicletta? In bicicletta, a 26 anni, da sola, una ragazza carina, ho visto le foto. E tu arrabbiatissimo perché era partita, ovviamente. Ovviamente. No, però mi ha sorpreso molto, perché comunque passando in Africa per degli stati che sono davvero pericolosi, oggettivamente pericolosi, e leggendo il suo blog non ha riscontrato problemi. Come dicevo prima, se uno si apre col cuore in mano alla gente e ovviamente sta attento, possono capitare solo cose belle. Ecco, tu mi dicevi che in generale dei viaggiatori non si teme mai, nel senso che si ha sempre fiducia, piena fiducia degli altri, perché sono viaggiatori come te e quindi sicuramente non ti faranno del male. Io ho incontrato molti viaggiatori durante il mio viaggio, appunto, e con loro ho condiviso qualche chilometro, qualche giornata certe volte, ho condiviso la tenda, ho condiviso pasti, e questa condivisione era spontanea e naturale. Nel giro di 10 minuti per incontrarsi, dirci da dove vieni, cosa stai facendo, dove vai, ci si mette a pedalare insieme e potresti dargli tutti i soldi che hai in mano e li ritroveresti lì. C'è un amore spontaneo tra viaggiatori che non si trova, o comunque sia che non sono abituati non a vedere. Non si è abituati, ecco. Perché secondo me la gente è spaventata più che altro. Oppure parte con un'intenzione cattiva magari, ma se sei in viaggio... Tu cerchi persone buone, tu sei buono. Arriva solo il lato buono. Arriva solo il lato buono. Viaggio di nozze in bici da Francia a Spagna, Camino di Santiago, 2013, Londra-Parigi in bici con moglie e bimbe di 3 e 1 anno. Devo dire, difficile impresa, complimenti. Indimenticabili, aiutano molto a consolidare rapporti ed affrontare meglio insieme ogni tipo di difficoltà. Questo sicuramente, quando si è più di uno, bisogna affrontare le cose insieme. Ti è mancata qualche volta il fatto di non poter condividere un'esperienza o una difficoltà? Allora, sorprendentemente io sono partito in solitaria, ma ho avuto molti tratti del mio viaggio in cui non ero in solitaria, ero in compagnia. Mi è venuta a trovare una mia carissima amica per tutto il cammino di Santiago, affittando una bici, se l'è fatto con me, ed è stata una bellissima esperienza di condivisione, e impari anche a gestire meglio il rapporto. E anche in Finlandia ho fatto 1000 chilometri con un amico di un amico. Quindi questa è una storia particolare, perché non ci conoscevamo, ci siamo contattati su internet dicendo: ah, mi piacerebbe, io sarò lì, mi piacerebbe bermi una birra con te, fare due chiacchiere e magari viaggiare 1 o 2 giorni insieme. Siamo partiti con questa idea, viaggiamo e vediamo come ci troviamo. E lui era un grandissimo compagno di viaggio, si è dimostrato, e abbiamo trascorso appunto quasi un mese insieme, condividendo tutto. Ecco, devo dire che Erwin Steiner ha deciso, cioè pensato, immaginato un giorno di mettere una X sull'8000 chilometri, cioè il KM, il chilometri, e sulla K in particolare, in modo che si trasformasse in 8000 metri, perché il suo sogno sarebbe cercare di raggiungere una vetta così alta. Daniele Nardi, buona domenica. Buona domenica a voi. Insieme a Daniele Ricci hanno scritto un libro, In vetta al mondo, storia di un ragazzo di pianura, perché da lì si parte, che sfida i ghiacci eterni. Daniele Nardi, credo che di 8000 metri ne abbia raggiunti 4, vero? Beh, in realtà sono 5. Ah, 5, ecco, bene. Sì, meglio. Uno, diciamo, è sempre contestato, perché in realtà non sono arrivato sulla cima principale, ma su una, diciamo, anticima di questa montagna, che però viene considerata comunque 8000 metri. Diciamo, per me quella fu una grande esperienza, perché la scalai in velocità, in sole 19 ore sono andato in vetta, e quindi per me è come se l'avessi scalata fino in fondo, insomma. Ecco, Daniele, al contrario di Erwin, che è andato in bici, io credo che per la montagna i presupposti debbano essere completamente diversi come preparazione. Beh, no, in realtà, intanto i complimenti vivissimi per le imprese che fa Erwin, insomma, in bici. Tra l'altro è un mezzo che a me mi appassiona molto, che io utilizzo per i miei allenamenti. Ecco, scambiatevi le parti allora. Ma beh, potrebbe essere magari il prossimo 8000, chissà, lo facciamo insieme. Senti, non si può mai sapere nella vita. Se ci sono stati contatti tramite il web, chissà che attraverso Radio 24 non riusciamo magari a creare una spedizione particolare, insomma, su queste cime. Ecco, sicuramente li metterò in contatto. Senti, ma sei sul Nanga Parbat? Perché sento un vento pazzesco, dove sei? Sì, cioè, no, sono in scalata al Gran Sasso in questo momento, ma purtroppo si dice nel centro Italia che il vento nasce al Gran Sasso per morire alla Maiella, che è la montagna qui vicino, e in questo momento diciamo che non si sta lasciando tranquillo, mettiamola così. Ecco, siamo in Abruzzo in questo momento, salutiamo anche Abruzzo. No, perché arrivano anche diversi messaggi da ascoltatori abruzzesi, poi anche parte della mia terra, perché vengo metà di me, sono lì, quindi sono posti che conosco anche molto bene. E Daniele, qual è stata l'esperienza, poi ti lascio la tua salita, perché è impegnativa, semplicemente quella più, non so, quella che ti ha lasciato davvero qualcosa, lo racconti nel libro sicuramente, ma per chi non l'avesse ancora letto, insomma, raccontatelo. Allora, a te. Intanto quando si parlava prima di viaggio, di viaggiatori che si incontrano, mi è venuto subito in mente io e Dario Ricci, che ci incontriamo e cominciamo a scrivere questo libro, che è una sorta di provocazione in mezzo al mondo, perché in fondo lui è un viaggiatore della vita, dove cerca emozioni, esperienze anche attraverso, insomma, la radio che condividete, mentre io cerco le montagne e la sfida e l'avventura su queste alte cime. E quindi l'incontro con lui mi ha permesso di mettermi a nudo, e lui è stato molto bravo a farmi quelle domande che a volte noi alpinisti non abbiamo né tempo né il coraggio di farci. E quindi In vetta al mondo mi permette di esplorare, credo, l'avventura più bella che io ho fatto, anche se non mi hai portato di fatto in vetta, cioè il Nanga Parbat in inverno. La sfida che io ho lanciato appunto quest'inverno era proprio cercare di scalare per la prima volta questa montagna di oltre 8000 metri in inverno, in stile alpino e lungo una via nuova. E il viaggio di questa pubblicazione che facciamo insieme è proprio questo, la vita e la vita dell'alpinista che si incontrano lasciando uscire emozioni di avventura, di viaggio e di una sorta di feeling che ti permette di vivere la montagna però attraverso le esperienze anche quotidiane che ogni persona fa nella vita. Ecco, rendendola difficile apposta, quindi non ti sei fatto mancare niente, ecco. Adesso... grazie, no. Grazie Daniele Nardi, e insomma, buona continuazione per la tua salita, ciao, buona domenica. Grazie mille, buona domenica a tutti e buona pedalata. Ecco, adesso poi Erwin, dopo che ti ha sentito, sicuramente cancellerà il suo cap e metterà metri, 8000 metri. In vetta al mondo, storia del ragazzo di pianura che sfida i ghiacci eterni, Infinito Edizioni, gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Vedi Erwin, parliamo di geografia dell'anima oggi, però poi c'è chi è assolutamente molto terreno. C'è un ascoltatore chiede, un po' ironicamente, si chiama Gianni, quante donne si sono concesse al ciclista, ecco, a te. Ecco, il pensiero, quel tipo di pensiero, cioè il pensiero proprio di conoscere qualcuno per condividere anche sentimentalmente un viaggio, c'era oppure era completamente dimenticato? Come se fossi su un eremo per... Non ho proprio sentito il bisogno. Per me il viaggio era così carico di emozioni e così intenso, pieno di stimoli esterni e interni, che non sentivo il bisogno di trovare qualcosa in l'anima aggiunta, gemella, l'anima diciamo. Gemella, o semplicemente anche il divertimento di una sera, sì, o di cui un giorno. Non ero interessato durante il viaggio, non era parte del viaggio. Perché questo è un aspetto che così non si affronta mai, però che esiste, che fa parte della nostra natura, anche un istinto. Esatto. Però in realtà tu dici il viaggio è talmente pieno di cose da affrontare che dimentichi quella parte, non ti interessa. Esattamente. C'è una parte fisica naturale, ma facilmente gestibile, voglio dire. Sì, chiaro. Allora, Alessandro Tavallini, ciao, buona domenica. Buona domenica a voi. Alessandro, ho pensato a una cosa alla quale io avevo pensato tempo fa, poi non l'ho mai realizzata, poi qualcuno chiaramente l'ha fatto, ma meno male. Perché se avessimo dovuto... In un momento come questo, meno male. Ecco, se avessimo dovuto aspettare me. Grazie Alessandro. Allora, il sito si chiama deseolab.com. Vuoi raccontare tu di cosa si tratta, Alessandro? Molto volentieri, in realtà... Deseo Lab è una grande bacheca di sogni dove le persone possono entrare ed esaudirli o ed esprimerli. La cosa più bella è quella di poter entrare e esprimere sogni e desideri di qualunque tipo, nel senso che se andiamo a fare una carrellata vediamo che ad oggi già quelli che sono presenti, quelli che sono stati espressi sono rappresentativi di come Deseo Lab si vuole presentare, perché c'è chi chiede magari al sogno di trovare uno sponsor per la maglia della squadra di calcio dei propri ragazzi, piuttosto che chi sogna di fare un viaggio, chi sogna di imparare a dipingere. Ieri è stato pubblicato un annuncio di una persona che sta studiando e che vuole trasferirsi in Australia, ma la cosa ancora più bella sono tutti quelli che hanno delle invenzioni o quelle idee di progetti che non hanno molto probabilmente idea da che parte iniziare e quindi chiedono aiuto, cioè ho un'invenzione, ho un'idea, un progetto, qualcuno mi aiuta a realizzarlo. Quindi questa è una grande bacheca dove le persone entrano, esprimono il proprio desiderio e tutto si basa sul principio anche di solidarietà e generosità che c'è insito in ognuno di noi, perché fondamentalmente qualcun altro potrà entrare nella stessa bacheca e decidere di esaudirlo. Ecco, quali sono i sogni, cioè se c'è un sogno più ricorrente, un argomento più ricorrente rispetto ad altri? Faccio un esempio, allora, i viaggi, non lo so. Allora, i viaggi, noi stiamo ricevendo una serie di sogni e dobbiamo creare ovviamente un minimo di moderazione. Quello che si evince è il voler cambiare qualcosa. Mm. Si vede che ci sono tante persone stufe della situazione attuale che hanno voglia di sognare, ma che probabilmente ad oggi la società per come sta andando, ci sta un po' mettendo in difficoltà. Sì, insomma, questo sogno non lo fa tanto, non lo, fa fatica a concretizzarlo, ecco, diciamo così. Beh, ma il bello è, forse in questo momento dove pochi, diciamo che dove non, nessuno ci sta aiutando, nessuno aiuta le persone, aiutiamoci da soli, quindi ognuno esprime un desiderio e molto probabilmente c'è qualcuno dall'altra parte dello schermo che magari per esaudire quel sogno non ha così tanta difficoltà. Ieri c'era un annuncio che ho visto, un sogno dove diceva sogno di fare riorganizzare una cena con il mio compleanno, i miei 35 anni, non posso permettermi di invitare dei miei amici a una cena perché in questo momento non posso. Vediamolo su un lato diverso di generosità, magari c'è un ristorante ad oggi nella sua città che ha bisogno di… magari non sta andando bene, ma sì, certo, di farlo conoscere, quindi di farlo conoscere, in, dice, in contempo esaudisco il desiderio di una persona che l'ha espresso e mi faccio anche conoscere, quindi aiutiamoci tutti tra di noi. Alessandro, quanto tempo fa è nato questo sito? 5 giorni fa. Quindi da pochissimo. E hai visto un incremento costante della presenza di sogni? Classico Google Analytics, intanto le visite aumentano di giorno in giorno e richieste di sogni incredibili, cioè bisogna fare veramente tanta moderazione. Ecco, va bene, meglio così, i sogni sono tanti, spero che siano anche tanti quelli esauditi, perché poi alla fine c'è una puoi dare già una percentuale in questi 5 giorni di sogni esauditi o è troppo presto, chiedo un numero che non conosco. Perché ad oggi diciamo che le persone si stanno sbizzarrendo nell'esprimere qualunque tipo di sogno. Ecco, anche la loro sicuramente Deseo Lab c'è l'obiettivo anche di cercare di far sì che possano essere esauditi. Nessuno ci vieta di andare a contattare. Ieri è stato pubblicato l'annuncio di una persona che vuole andare a vivere in Australia. Ho visto. Ci impiega di andare a contattare l'ambasciata australiana e chiedere di poterlo fare. Alessandro, qual è il tuo di sogno? Il mio sogno? Sì. Essere felice, diciamo che li sto già realizzando, ho un figlio stupendo e quindi una moglie stupenda, quindi va bene. Allora speriamo che insomma questa felicità poi si trasmetta anche alle persone che chiedono un sogno e che venga esaudito presto. Grazie Alessandro Tavallini, buona domenica. Ciao. Vi ricordo il sito www.deseolab.com. Prima di pretendere qualcosa prova a pensare a quello che René Grani canta in questa canzone: prima di partire per un lungo viaggio bisogna mettersi in testa il fatto di non tornare più. Non era il tuo caso? Non era il mio caso. Avrebbe voluto esserlo? Sarebbe stato il mio desiderio. Effettivamente io desideravo partire e quello era il mio desiderio. Punto. Partire e basta. Non pensavo a un ritorno o non ritorno. Mi è passato anche per la testa di cogliere magari qualche opportunità e non tornare. Poi però durante il viaggio ho desiderato tornare e sono tornato contento, felice di aver fatto quello che avevo fatto. Cosa ti ha dato la Scandinavia? La Scandinavia a me ha dato molto perché, come ho detto prima, per me era un sogno arrivare là, alle grandi foreste, grandi spazi, e penso che ci sia un'analogia tra uno spazio aperto che ti dà questa sensazione di libertà e ti apra rispetto a quello che a me opprimeva prima di partire, che era la routine, era stare in una città con le stesse persone, gli stessi atteggiamenti, gli stessi comportamenti. Ti svegli al mattino e sai che bene o male farai quelle cose, sempre le stesse. E a me questa cosa mi stava distruggendo, per cui sentivo proprio il bisogno di muovermi per non avere più sempre le stesse cose, sempre qualcosa di nuovo. Ogni giorno c'era qualcosa di nuovo. E arrivare poi al nord è stata come un'esplosione che mi ha dato questa visione, un orizzonte infinito, foreste giganti, renne a milioni, strade infinite tipo quelle americane, che ti danno quella sensazione proprio di infinito, di libertà, per poi arrivare alla meta del capo nord, sì. che di per sé non è niente, è un punto perché turistico. Poi, sì, esatto, perché poi sto turistico milioni di biciclette, di persone. Cioè... E la cosa interessante è che nonostante sia proprio un posto che, se non sbaglio, ha più di 5 milioni di visitatori l'anno, sì. Ogni viaggiatore si prende il suo angolo di Capo Nord. Mm. Per esempio, io mi ero andato a mettere con la tenda a più o meno 500 metri dal punto turistico, e c'erano altre due tende, che erano un altro italiano, un ragazzo di Trento che era venuto in autostop, e un altro invece un francese di Marsiglia, sempre in bici. E lì si capiva già che chi voleva andare solo per farsi la foto e dire sono stato a Capo Nord... Con tanto di mappamondo alle spalle. Esatto, sì. Stava in un certo angolo di quell'area. Sì. Mentre gli altri viaggiatori che hanno raggiunto con un desiderio, con uno scopo, si son tagliati quest'angolo di rocce e erbetta, perché non c'è nient'altro, dove poter stare comunque per pace, conto proprio. Per conto proprio. Ecco, nel tuo viaggio hai incontrato tanti solitari come te, e se più rispetto a quelli, non so, in coppia o in gruppo, e poi le età che hai incontrato? Allora, devo dire che viaggiando in bici l'età media è sicuramente superiore ai 30 anni, forse per un fattore di tempo lavorativo, nelle vacanze. Sì. Ci sono molte persone anziane che quindi sono in pensione e vanno in giro, si fanno qualche mese perché se lo possono permettere effettivamente come tempistica. Ci sono alcuni ragazzi che lo fanno appunto magari come desiderio e necessità, come è stato nel mio caso, e generalmente gli adulti di fascia media sono magari appunto, come ci hanno scritto dei messaggi, in coppia, perché magari è una vacanza o il viaggio di nozze è un pochino più particolare. Come abbiamo sentito, un'esperienza. Hai già in testa il prossimo viaggio o non sai ancora niente? O lo stai già immaginando? Immagino tante idee, sì? Sempre su due ruote, magari a motore. Sì. Magari non partendo dallo Stelvio, ma da qualche altra parte. Puoi parlare con Andrea in, esatto, quel caso, ti fai prestare la sua Guzzi. Che sembra aver tenuto. Ho altri viaggi sempre in questo stile, magari sia in solitaria che in compagnia, perché in ogni caso si impara sempre. Grazie a Erwin Steiner. Io vi ricordo il sito se volete continuare, insomma, a leggere la sua esperienza e vederla anche con le immagini, perché interessanti sono anche quelle, ovviamente, e così seguire un po' la storia che avete sentito, che è www.8000km, che sta per chilometri.it. Grazie Erwin. Grazie a voi, grazie a tutti. Tra poco parleremo come sempre di giochi e videogiochi, stando assolutamente in tema. Poi avremo il nostro gastronauta e il nostro cinegustologo, sempre nel riposo del guerriero, dopo le previsioni del tempo. Giochi e videogiochi. Vabbè, cerchiamo anche di viaggiare quando si parla di giochi, lo facciamo con la mente, ovviamente non fisicamente, ma cerchiamo di farlo. Andrea Ligabue, ciao, buona domenica. Ciao Stefano e buona domenica a tutti. Il nostro ludologo pronto per raccontarci di cosa? Allora, oggi, visto che il tema è il viaggio interiore, volevo parlarvi di un genere di giochi, proprio di una tipologia di giochi, di cui non abbiamo mai parlato in trasmissione, che sono i giochi di ruolo. I giochi di ruolo sono nati 40 anni fa, perché compiono proprio il 40esimo anniversario nel 2014, sono nati 40 anni fa e sono dei giochi in cui i giocatori si devono immedesimare, quindi prendere, diciamo, forma di un personaggio a seconda dell'ambientazione, possono essere personaggi fantastici del futuro, e giocare un'avventura vivendo nei panni di questo personaggio. Il tutto viene fatto ovviamente viaggiando con la fantasia, quindi per questo mi sembrava interessante parlare. Ecco, anche perché, scusami, se mi interrompo Andrea, i giochi di ruolo normalmente partono da una base, da una storia che ha delle regole, diciamo così, però poi i personaggi vengono gestiti da una persona che gestisce la storia degli altri, cioè tiene un po' le fila di tutto, e bisogna avere capacità anche di inventiva, di creatività e anche attoriali in qualche caso, Andrea. Sì, Esatto, diciamo, ci sono due ruoli principali nel gioco di ruolo. Il gioco del narratore, come viene detto in gergo il master, che è proprio quello che deve preparare la storia, l'avventura in cui gli altri personaggi si muoveranno. Spesso, diciamo, i master più bravi addirittura preparano dei veri e propri mondi, perché per lasciare la libertà di azione ai personaggi devono prevedere tutte le varie possibili cose che loro vedranno, esploreranno, e quindi magari inventano città, inventano personaggi, inventano storie. Dentro queste storie si muovono gli altri giocatori, che comunque devono anche loro avere diciamo capacità di interpretazione e anche capacità di sapersi immedesimare nel loro personaggio e nella storia. Ovviamente più questo avviene in maniera riuscita, meglio è la partita e più grande è il divertimento di tutti. E la cosa bella dei giochi di ruolo è che, diciamo, l'avventura non si esaurisce in un'unica serata, cioè spesso un'avventura dura 2-3 serate e una campagna, che è una serie di avventure, può durare anche 1-2 anni, e quindi uno per 1-2 anni si ritrova a vivere le vicende di un personaggio in cui, e quindi man mano lo personalizza, ci sono degli aspetti ricorrenti, si creano legami con le altre persone del gruppo. Diciamo, ecco, che delle forme di gioco probabilmente è quella più, adesso dire la parola invasiva è brutto, ma è quella che sicuramente è più coinvolgente, più appassionante. Sì, tant'è anche vero, perché, sì, scusa, tant'è vero, dicevi? Dicevo, tant'è vero che in America, ovviamente, quando si parla di ragazzi e si parla di passioni, c'è sempre qualcuno che è contrario. In America addirittura era nata un'associazione che si chiamavano Madri Stanche di Dungeons and Dragons, che era questa associazione di mamme che sostenevano che questo tipo di gioco potesse, diciamo, danneggiare o coinvolgere troppi i loro figli. Guarda, oggi parliamo di giochi, anche di videogiochi, che danneggiano i figli, cioè, nel senso che partono sempre da quel presupposto, e non è vero assolutamente, no, però esatto. Insomma, purtroppo il presupposto è quello, ma semplicemente perché immedesimandosi in un ruolo si ha voglia di farlo andare avanti e vivere un secondo io. Ricordiamo che i giochi di ruolo sono nati in un momento in cui non c'era internet, quindi non c'era la possibilità di vivere un'altra vita, ecco, essere qualcun altro. Oggi, esatto, i giochi di ruolo sono trasferiti anche nel videogioco, ovviamente, e nella rete è già diverso. Uno può anche, senza giocare un gioco di ruolo, vivere un'altra vita inventandosi un profilo che non esiste. Ecco, diciamo, esempio, che però quelli che sono gli MMORPG, cioè i giochi di ruolo massivi e online, diciamo, rispetto al gioco di ruolo classico, quello che si gioca a un tavolo, diciamo, prediligono di più gli aspetti tecnici o del combattimento piuttosto che gli aspetti veri e propri, magari narrativi o di interpretazione. Ecco, certo, della creatività. Diciamo che un gioco di ruolo è vero quando si svolge al tavolo, può anche non richiedere niente se non inventiva, anche se esistono però delle scatole e dei libri che hanno già, esatto, delle storie preparate dalle quali partire. Io volevo citare alcuni titoli in italiano disponibili. Sono Sine Requie, che è un gioco ambientato in uno scenario apocalittico in cui nel 1944 in pratica i morti risorgono sulla Terra, e quindi, diciamo, c'è un periodo post Seconda Guerra Mondiale caratterizzato però anche dalla presenza di non morti, quindi zombie e tutte quelle cose lì. Poi Savage Wars, che è un sistema di gioco di grandissimo successo in America, che verrà presentato proprio tra poco in italiano o a Lucca o poco dopo di Lucca, che è un sistema di gioco che può essere applicato a diverse ambientazioni. Una delle ambientazioni che presenteranno a Lucca molto probabilmente è un'ambientazione fantasy classica. E poi ancora in italiano abbiamo Pathfinder, che è, diciamo, probabilmente il gioco di ruolo al momento più diffuso, che è quello che trae origini da Dungeons and Dragons, e l'anno prossimo dovrebbe uscire D&D Next, la nuova versione del Dungeons and Dragons, che pare fare un ritorno alle origini. Diciamo, l'anno prossimo festeggia proprio 40 anni il Dungeons and Dragons, e quindi c'è molta attesa da parte del mondo dei giocatori. Chiaro, grazie Andrea Ligabue, ciao, buona domenica. Ciao Stefano e buona domenica a tutti. Emilio Cozzi, giochi che fanno male. Parliamo di GTA 5 appena uscito, e lì si sono già scatenate le ire di genitori e di associazioni. Emilio, come al solito, ecco. Mi hai punto sul vivo, caro Stefano. Intanto buongiorno ascoltatori. Sì, GTA 5 è appena uscito, e oddio, ecco, come dire, ridurlo a un videogioco che fa male, secondo me è veramente limitante e assolutamente fuori luogo, soprattutto scorretto. Però vorrei partire dal tema della puntata, insomma, perché il viaggio ci porterà a arrivare a GTA 5 percorrendo dei videogiochi che del viaggio hanno fatto proprio il loro tema, se vuoi anche metafisico, uso questa parola azzardatissima, posto che tutti i giochi e anche i videogiochi ovviamente abbiano una componente in qualche modo, chiamiamola di fuga dal mondo reale. Wittgenstein, sì, uno dei più grandi, come dire, studiosi del gioco nell'ultimo secolo, disse che il gioco è avulso, è staccato dal consueto, ed è vero, è un altro mondo, è un altro mondo. Lo sa benissimo Jonathan Blow, che è questo sviluppatore indipendente, una star degli sviluppatori indipendenti, che nel 2008 appunto produsse e pubblicò Braid, questo giochino che di primo acchito sembra un platform come Super Mario, per fare un esempio che tanti conoscono, ma che in realtà poi è lungo il suo percorso, appunto questo personaggio verso la sua principessa svela ben altri panorami. Pensa solo, e non voglio svelarlo per non rovinarlo agli ascoltatori, che sul finale ci sono 6, 7, 8 interpretazioni diverse, addirittura IndieVault.it, che è uno dei siti di riferimento per la cultura indipendente, ne dava delle interpretazioni psicanalitiche proprio questa settimana, e il gioco è di qualche anno fa, quindi un viaggio mentale assolutamente. Un altro gioco basato sul viaggio è Journey, il miglior gioco secondo me dell'anno scorso, 2012, è realizzato da Dead Game Company, cioè Genova Chen e Kelly Santiago, due sviluppatori ormai notissimi, che addirittura secondo me, come dire, visualizzava il sacro. Il giocatore si trovava in questo deserto con un cappuccio, il suo personaggio aveva semplicemente un cappuccio senza connotati sessuali, di genere, non capivi se era un uomo, una donna, se era un essere vivente, chi lo sa, e senza saper fare, neanche come dire, sapere quale fosse l'obiettivo del gioco. Tu dovevi semplicemente cominciare a camminare e scoprire qual è il tuo senso, mi verrebbe da dire. Secondo me già per questo è un gioco irraggiungibile, dalle vette veramente altissime. E arriviamo finalmente a GTA. Ecco, tra l'altro GTA è stato il primo gioco ad avere, uno dei primissimi, ad avere l'open world, per cui la possibilità di, esatto, andare dove vuoi e senza seguire necessariamente una serie di obiettivi e di storie che possono essere gestite come vuoi, che cambiano anche con il cambiare delle ore, per esempio, dei giorni. Cambiano con il cambiare delle ore, addirittura in quest'ultimo episodio, che ci sono degli elementi di giochi di ruolo, come state dicendo voi poco fa, di RPG, per cui i personaggi possono essere, crescono a seconda dell'utilizzo che ne fai, cambiano caratteristiche, possono essere potenziati, e come hai detto tu, hai toccato il punto centrale, io credo che l'aspetto fondamentale di GTA 5, di GTA, di tutta la serie e forse di tutti i giochi di Rockstar Games, che è questo grosso publisher, grosso sviluppatore che pubblica questi giochi con 2K, sia il conferire al giocatore la massima libertà di azione. Massima libertà di azione vuol dire anche, come dire, fare cose non lecite nel mondo reale, ed è questo che attira tutte le critiche che questo gioco sta tirando, perché è un gioco nell'ambito del quale puoi davvero fare qualsiasi cosa ti venga in mente, da picchiare una prostituta, a rubare un'auto, a essere un criminale. Anche perché, insomma, l'inizio, cioè da lì in poi la vicenda è quella, è della scalata di un criminale, per cui esatto. Quella è la visione della cosa, poi puoi anche farla cambiare se vuoi. E questa è la cosa interessante, la cosa bella secondo me, ed è, ripeto, il leitmotiv di tutta la produzione di Rockstar, è avere alzato il livello del gioco portandolo a un contenuto di tipo adulto, come nel film, come se uno oggi vedesse Arancia Meccanica ne riconoscerebbe di sicuro, come dire, il valore e l'importanza immensa dal punto di vista anche visivo, dal punto di vista contenutistico, e ne riconoscerebbe anche la fruizione profonda e adulta. Così il videogioco in questo momento punta a quelle vette. Rockstar ha avuto il grande merito, a mio avviso, di portare il videogame da un ambito che era quello di ex Dungeons and Dragons a tematiche di un altro tipo, con anche evidentemente come dire, degli aspetti ambigui e degli aspetti controversi. Sa di fatto che ogni volta se ne parla, ecco, ne parlano tutti per una cosa o per l'altra. Dimmi. In nemmeno 72 ore ha incassato $1 miliardo, sì, è il record assoluto in effetti di vendite. Avatar, per fare giusto un confronto, sì, quantitativo, perché poi i mondi sono parzialmente sovrapposti, non c'entrano molto cinema e videogiochi, ma Avatar per incassare $1 miliardo impiegò 17 giorni, ecco, la Grand Theft Auto 5 ne ha impiegati nemmeno 3, e questo insomma dà un po' le proporzioni. Grazie Emilio Cozzi, ciao, buona domenica. Grazie a voi, buona domenica. Le suggestioni del gastronauta. Ciao Davide, buona domenica, e le tue suggestioni stanno per arrivare e io ho già la cuorina in bocca senza neanche averle sentite. Bene, allora partiamo da un ristorante appena aperto sui Navigli, in Alzaia Grande, e devo dire che in quell'area non è che ci siano tantissimi posti di qualità. Ebbene, questo secondo me è uno di quelli che potrebbe, diciamo, sollevare l'eccezione. Si chiama Turbigo. Turbigo è un bar e ristorante. Dentro c'è un giovane cuoco di origine napoletana, e si sente, perché in alcuni piatti c'è proprio lo zampino della sua terra. Non lo so, ad esempio sulla carne cruda di manzo c'è scapece di zucchine, sulle seppie ananas, porri e c'è il friggitello crudo, insomma, e anche su altri, ad esempio su un risotto al pomodoro ci sono le vongole, quindi c'è questa mano napoletana, questa anima napoletana, ma tra l'altro anche in piatti che non sono così napoletanissimi, come le costine di maiale, zucca e yogurt, c'è qualcosa di interessante, perché le costine non c'è, diciamo, l'osso, ma sono ben spolpate e ne viene fuori un qualcosa così abbastanza di diverso dalle solite costine. Insomma, poi anche sui dolci ci sono un cremoso alla nocciola e lampone davvero molto ma molto intriganti. Insomma, fa ben sperare, credo, questo locale, questo giovane cuoco napoletano. Lo ripeto, il locale si chiama Turbigo. Ma ora passiamo poi a delle suggestioni molto particolari. Un vino che è stato completamente recuperato, un vino ottenuto da uva Termarina. Sono onesto, quella sera che mi è stato offerto alla Rosa dell'Angelo in quel di Traversetolo, io di questa vitigna non ne avevo mai sentito parlare. Devo dire che è un vino che mi ha molto colpito, e anche la sua storia del recupero fatto da questa azienda che si chiama La Madonnina di Torrechiara, in provincia di Parma. Ebbene, è un vino sorprendente, perché ha un gusto deciso ed è molto caratterizzato dal profumo. Ha 12,5 gradi, quindi non è che sia un vinello. C'è quel pétillant di fondo, secondo me molto ma molto gradevole. Bene, va benissimo con le carni, come con quel prosciutto crudo di maiale nero, prodotto appunto dall'azienda Rosa dell'Angelo, ottenuto da allevamenti di maiale nero appunto allo stato brado, che erano presenti quella sera, con un grasso davvero straordinario. Bene, c'è ancora il sapore di quel grasso. Volevo scartare il magro per mangiare il grasso, e quando questo succede in un prosciutto vuol dire che questo prosciutto è veramente eccezionale. Bene, ma sempre alla Rosa dell'Angelo devo dire che ho sentito anche un parmigiano, sempre vicino addirittura all'allevamento di questi maiali neri, che si chiama, l'azienda agricola si chiama Iris. Ho sentito uno di un parmigiano, una forma di un anno, con il sapore del latte ancora in bocca, veramente un formaggio che lasciava questo gusto del latte, che è giusto perché tutti i formaggi sono ottenuti col latte, molte non si sente più, questo si sentiva molto molto intenso, invece quello di due anni si sentiva il fieno, era ovviamente, diciamo, come era stato allevato, come erano state allevate sicuramente quelle mucche. Quindi suggestioni, devo dire, molto, molto particolari, anche un pane della zona, davvero di un panettiere che ha una raccolta di grani antichi, che fa, diciamo, che cura molto i grani antichi, e quindi devo dire che in quella serata lì, con poche cose, è stata una serata davvero straordinaria di suggestioni che ben ricordo. Grazie. Bene, io le mie suggestioni le ho finite e non mi rimane che augurare buona domenica a tutti. Certo, con tutta la colina in bocca che ci siamo intanto fatti. Ciao Davide, buona ciao. Domenica. Presto, ciao. Presto. Cine gustologia. C'è anche il sito cinegustologia.it, Marco Lombardi, non l'avevo mai detto, oggi lo dico invece, me l'ero dimenticato. Allora, qual è il film al quale associ la tua ricetta, Marco? Buona domenica. Buona domenica a te, Stefano, e a tutti gli ascoltatori. Oggi due veloci, perché oltretutto sono due film che hanno anche a che vedere con la velocità, direi proprio di sì, sì. Vabbè, uno, insomma, sai già, Rush, film, l'ultimo film di Ron Howard, trae spunto dalla storia vera del conflitto, della competizione tra James Hunt e Niki Lauda, nell'anno in cui Niki Lauda ebbe l'incidente famoso in Germania e in cui perse il campionato del mondo dopo aver dovuto rinunciare a un sacco di gare. James Hunt, la follia, il genio, la sregolatezza, la creatività. Niki Lauda invece la dedizione, è uno che si fa il mazzo sulle cose, forse anche è uno che cerca di sopperire all'assenza di un talento puro con appunto la serietà. Quindi sono in pratica due anime diverse che poi convivono in tutti quanti noi, per quello che il film funziona. Il film è molto molto classico da questo punto di vista e mi fa pensare a un vino, questa volta parliamo di un vino anche, a uno Chardonnay, ma uno Chardonnay che è stato invecchiato parecchio tempo in barrique, quindi nel legno. Lo Chardonnay c'ha dei sentori proprio di base, di frutta, tipo di fiori, non so, acacia, mela, pera, pompelmo, ananas, eccetera. Però c'è anche dei sentori di vaniglia e di burro. Quando sta a lungo nella barrique, lo Chardonnay acquisisce, accentua questi elementi e copre un po' gli altri. Il film è così, cioè sicuramente i due personaggi nella vita reale non erano così netti come sono raccontati dal film di Ron Howard, però insomma nel film è come se fossero stati un po' barricati, quindi si sono tolte alcune sfumature, alcune complessità e si sono schematizzati, il che funziona benissimo. Sono anche molto piacevoli gli Chardonnay in barrique, però perdono un po' di struttura e di complessità. E invece andiamo al Sacro Graal. Ma sai che e invece non c'è tempo per andare al Sacro Graal. Andremo la settimana prossima, Marco. Ciao. Peccato. lo so, però insomma di quello si parlerà, di Sacro Graal. Lo sapete già da adesso. Ecco, l'abbiamo avvisato. Ciao Marco, grazie. Buona domenica, ciao. Vi ricordo cinegustologia.it, visto che lui è il nostro cinegustologo. Allora, intanto grazie come sempre a Giorgio De Luca in redazione, Roberto Scaltritti in regia, a voi per aver seguito il riposo del guerriero. Vi aspetto puntuali alle 10 domenica prossima per l'ultima puntata del riposo del guerriero. Buona settimana da Stefano Gallarini.